altro per sopravvivere in questa corsa che non fa respirare. Cosa faremo io e te quando l'amore finirà? Pensarci ora è un limite e farsi male. Domani no, ora lo so, vivere adesso è quello che farò, perché il futuro senza te può aspettare. Domani no, ora si può prendere tutto a piene mani e poi ogni momento è unico, ma domani no. È il modo per sconfiggere l'eterno rimandare a poi, per essere felici mai in questa vita. Mai più progetti tra di noi, nella mia lista dei vorrei solo il presente e la realtà che conosciamo. Domani no, ora lo so, vivere adesso è quello che farò, perché il futuro senza te può aspettare. Domani no, ora si può prendere tutto a piene mani e poi ogni momento è unico. Oggi prendo quel che dà, ma domani no. Domani no, ora lo so, vivere adesso è quello che fa.